Appello Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Caldiron Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Ciao Tony, ciao a tutti. Oggi siamo qui per ripetere a grande richiesta la relazione di John Fante sul libro Full of Life, un libro diciamo altamente biografico. Istituto Tecnico Bodoni Paravia, periferia di Torino. Un gruppo di ragazzi si riunisce intorno a un tavolo, si accende una webcam collegata ad un computer e via. Parte l'interrogazione, non destinata però ad un reality, ma al ricordo dell'amico Tony, come ci racconta il nostro Marco Ferrando, che ha seguito per noi un'ora tipo di una scuola che funziona, di una scuola del futuro che però è già qui. All'Istituto Bodoni tutto è partito da una radio. Esatto, è partito dal fatto che 4 anni fa noi avevamo un ragazzo in quinta che era gravemente ammalato e a un certo punto non ha più potuto seguire, e quindi era l'anno in cui il podcasting degli Stati Uniti è venuto in Italia, e subito a settembre ho cercato di capire cosa si trattasse per vedere se poteva essere utilizzato proprio per questo ragazzo, in modo da mandare a lui non tanto le lezioni, perché questo in fin dei conti poi i professori anche portavano a lui le lezioni, i compiti eccetera, ma quanto proprio il clima della classe, cioè l'essere dentro. E siccome noi studiavamo molto in questo modo, così discussioni, chiacchierate, un clima veramente amichevole eccetera, nel momento in cui c'è stata l'opportunità di registrarlo e inviarlo attraverso il web in modo automatico, così ci è sembrata l'opportunità migliore, infatti lui era molto contento, Tony, e da qui noi abbiamo sempre mantenuto la nostra sigla di apertura, ciao Tony, ciao a tutti, e poi ha superato brillantemente la maturità. Eccolo allora il professor Alberto Piana, altro che prof Fannulloni, artefice del progetto con la collaborazione e soprattutto i soldi della Regione Piemonte e della Apple. Eccolo, potremmo dire, l'eroe moderno di questa scacciata scuola che riesce ad appassionare ragazzi più a Baudelaire che a MTV, a fargli ascoltare nell'iPod Montale anziché musica grunge e a fargli produrre ben 500 trasmissioni. Che vedono i ragazzi protagonisti, perché non è l'insegnante che parla, perlomeno non è solo lui davanti a una telecamera, ma sono i ragazzi che parlano di quello che sanno, di quello che hanno studiato. Sì, esatto, loro sono organizzati da me in modo tale che settimanalmente ci sono delle lezioni da parte loro di storia e di italiano su argomenti che non si sono mai affrontati prima. Questo tengo a sottolinearlo, mai affrontati prima. Quindi loro sono soli con le loro fonti, con i loro libri e si devono preparare questa lezione. Dunque studiano molto, perché non esiste operazione sintetica sulla miseria. Per realizzare una buona sintesi 4-5 minuti occorre veramente impiegare parecchio tempo. Quindi è una grossa fatica da parte loro che poi presentano queste lezioni. Io intervengo dopo che loro hanno svolto le lezioni per discuterne, per capire quali sono i punti forti, eventualmente per rifarle anche in alcuni casi, perché no, e quindi invitare a ripresentare lo stesso argomento, no, con un taglio diverso, eccetera, no? Quando un ragazzo prepara una lezione su quell'argomento, tutti hanno letto le stesse cose che ha letto lui, naturalmente, in modo che se ne possa discutere, perché dopo questa lezione noi possiamo svolgere anche quelle che chiamiamo le discussioni tipo talk, no? Quindi improvvisate, un po' come abbiamo fatto oggi, no? Quindi si presenta un autore, un argomento, cioè, e poi si discute a ruota libera, collegandolo con altri autori, o altri eventi storici, se è storia, oppure anche con un vissuto, un'esperienza personale. Parlare davanti a una telecamera vuol dire avere un lavoro, preparare un lavoro curato, vuol dire padroneggiare una materia, vuol dire anche guardare al tempo. Di tutto questo, che cos'è che imparano di più anche proprio a livello di metodo e che poi può rimanere a loro anche in altri contesti, insomma, non solo a scuola? Beh, noi teniamo conto che ci troviamo in una scuola professionale, quindi con ragazzi che non hanno competenze linguistiche e culturali pari a ragazzi di un liceo scientifico classico eccetera. Dunque la prima cosa che secondo me, più ancora dei contenuti che sono importanti, perché è giusto sapere qualcosa di Montale eccetera, ma c'è una padronanza linguistica che secondo me è molto importante. Perché? Perché la padronanza della lingua significa avere una maggiore coscienza, un maggior controllo razionale e quindi una migliore capacità poi di apprendere. Prof dunque entusiasta, ma i più contenti sono indubbiamente loro, i ragazzi. siamo più sicuri in partenza con il professore perché ci ha già dato fiducia e sicurezza fin dall'inizio, ma poi non si sa mai cosa ti possono chiedere i professori, qual è, cosa gli viene in mente di chiederti, quindi dovresti studiare una valanga di cose e magari ti perdi qualcosa e in quel caso è la fine. Invece qua hai un argomento, tu ti prepari bene su tutto l'argomento e quindi acquisisci tutte le nozioni che ti servono e non tralasci niente di, diciamo, niente. Quali altre materie vi piacerebbe essere interrogati in questo modo? Di tutte, sostanzialmente di tutte, perché il metodo, attraverso questo metodo si memorizza meglio e dal momento in cui memorizzi meglio hai meno problemi, quindi ovviamente vorresti farlo su tutto, su storia dell'arte, forse sì, matematica sarebbe l'unico che non si può anche fare. Per l'esame sarebbe anche più facile per noi esporci davanti alla commissione. Sì, sarebbe più facilitato a parlare davanti a un pubblico e poi comunque puoi rivedere tutto. Chi ascolta, non so, prendiamo, tu ti chiami? Davide, che hai ascoltato, che differenza c'è tra l'ascoltare l'interrogazione di un compagno alla cattedra e l'ascoltare l'interrogazione di un compagno davanti al video? Sinceramente? Ok. Sì. Certo. Allora, quando le classiche interrogazioni che si facevano una volta, io non ascoltavo, non ho mai ascoltato nulla perché, insomma, come diceva il professore, sono solo pezzi di cose che uno sa. Invece così la spiegazione, uno ci mette del suo, uno poi partecipa, magari se hai delle domande le fai, le poni, e boh, quindi è più interessante così, ti coinvolge di più. Invece l'altro era proprio passivo, venivi interrogato, tu toglievi la gocciolina di sudore perché riuscivi a passartela, quindi... Ascoltandovi l'impressione era che quello che dicevate non solo rimanesse, come dire, nel podcast, ma anche un po' nella vostra testa, no? Cioè, insomma, si vedeva che eravate più padroni delle cose. Ecco, di tutte queste interrogazioni in questi anni, che cosa ancora vi è rimasto grazie a? Cioè, un qualcosa che non avreste mai imparato, ma grazie a questo metodo vi è rimasto e lo sentite vostro? Il metodo, abbiamo acquisito un metodo per ricercare delle informazioni. Poi, una serie di metodi che comunque ti portano a prendere delle informazioni e farne un discorso di senso compiuto e quindi avere una linea generale di magari di una serie di avvenimenti e riuscire a comunque a collegare, confrontare e porsi anche dei quesiti in base a tutto quello che si è imparato. Magari con altre materie, che ne so, con arte imparo la pagina 32, da pagina 32 a 34 e poi di quello che c'è prima e dopo non so fare dei collegamenti. E se magari il professore mi fa una domanda su Kafka, io bene o male so cosa dire, è rimasto mio quel libro, perché dovendo rispiegarlo, dovendo fare la lezione, poi ti rimane tuo. Abbiamo proprio la padronanza sia di storia che di italiano, forse storia le ultime cose no, però più o meno tutto, perlomeno per me, è rimasto. Quindi a 2 mesi dalla maturità non c'è l'ansia del riprendere il programma da capo perché magari le ultime cose più fresche ci sono e quelle vecchie, insomma, vi sentite abbastanza padroni su tutto? Italiano, sì. Storia sì. Poi le altre materie ovviamente un minimo di ripasso ci vuole, però sono meno preoccupato. Cioè, io sono sicura del fatto che se avessimo fatto italiano e storia normale, io adesso avrei il panico, perché di storia il programma è infinito, di italiano pure, invece così no, no, così io sono tranquilla. Ma basta solo l'esempio, noi l'anno scorso con un'altra professoressa abbiamo fatto la bellezza di forse 2 o 3 autori. Sì. Quest'anno quanti ne abbiamo fatti già fino adesso? Ne abbiamo fatti tanti, una marea, più i libri che abbiamo letto, quindi approfondimenti, cose extra. E noi comunque abbiamo già finito il programma quando ho sentito appunto questa professoressa, sono ancora ad Annunzio, che noi ad Annunzio l'abbiamo fatto a settembre, noi adesso l'abbiamo fatto a Montale. Un'ultima cosa, volevo sapere se da questa esperienza qualcuno di voi è venuta voglia di fare qualcosa, non lo so, insomma, se vi ha acceso qualche lampadina. Leggo molto molto molto molto di più di quanto leggevo prima, è diventata proprio una passione grandissima. Che prima avevo, ma non così come ce l'ho adesso. È proprio diventata molto personale. Leggo in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, quando ho tempo. È molto bella questa cosa. Forse si accendono queste lampadine in noi perché ci sentiamo più protagonisti di venire a scuola. Invece gli anni passati non era così, gli anni passati era più una tortura. Invece questo è proprio un interagire con l'insegnante, un cercare di capire, di approfondire le tue conoscenze. Davvero una scuola dei miracoli a sentir parlare questi ragazzi, la loro passione, come ci conferma un'altrettanto appassionata preside, questa della Bodoni Paravia di Torino. Sentiamola allora, Francesca Ramella. Sono molto attenti e molto interessati, non giocano battaglia navale sotto i banchi. E allora coccoliamoci con un'altra interrogazione, perché devo dire che per una come me che tutte le settimane è costretta a raccontare le brutture di una scuola che non ha soldi, di una scuola che non funziona, oggi è davvero un piacere questa puntata. Sentiamo. Ciao Tony, ciao a tutti. Oggi sono qui per parlarvi, di farmi un approfondimento sui paesi arabi israeliani. Tratto dal libro di Tommaso Detti, Storia del Novecento, Bruno Mondadori. Insomma, questa è scuola. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.